E allora torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, quando sono le 10.54 minuti prima, primi, come avevamo annunciato, siamo in compagnia questo giovedì mattina di due voci che questa radio già conosce a sufficienza. Per ulteriori presentazioni non credo ce ne sia bisogno, due compagni ci aiuteranno a ripartire un pochino dalla vicenda con cui abbiamo anche chiuso la rassegna stampa odierna, cioè insomma tutto il caos che intorno alla questione dei rifiuti si sta sprigionando, i vari conflitti che stanno emergendo tra regione, comuni, gruppi di potere più o meno grandi e estesi dentro la nostra regione. Ci aiuteranno a farlo anche in vista di una mobilitazione importante sabato pomeriggio a Albano, è così? Sì, sabato 22 ottobre ad Albano ci sarà una manifestazione contro l'inceneritore. Un attimo, c'è soltanto qualche problema con i microfoni. Ok, scusate il piccolo problema tecnico, proviamo a ripartire dove avevamo lasciato. Sì, diciamo che sabato ci sarà una manifestazione nelle strade di Albano contro l'inceneritore per la chiusura della discarica di Roncigliano, che è stata ampliata ultimamente, quindi contro anche l'ampliamento di questa nuova discarica. E poi parleremo anche di invece una manifestazione che c'è stata proprio ieri per quanto riguarda invece tutte le discariche del nord di Roma, quindi i comitati di Fiumicino, Corcolle e Riano si sono visti al Consiglio regionale per diciamo, manifestare contro il nuovo piano rifiuti che prevede delle discariche nei loro territori. Sì, allora insomma sabato c'è questa nuova mobilitazione ad Albano, come dicevamo, contro il progetto di inceneritore, che fortunatamente grazie alle mobilitazioni è ancora un progetto, e contro invece quello che è l'ampliamento che è in corso d'opera della discarica che ormai da più di 30 anni è presente nel territorio d'Albano Laziale, nella località di Roncigliano. Diciamo che sicuramente le aspettative rispetto alla possibilità di invertire la tendenza e di bloccare questi scempi che sicuramente grossi gruppi di potere vogliono per continuare a fare profitti, cioè abbiamo la possibilità insomma di mettere una zeppa finalmente tra i bastoni di questi signori, che però intanto nel frattempo si fanno la guerra per spartirsi la torta. E infatti insomma le notizie, anche quelle di questa mattina sulle iniziative di Manlio Cerroni, sono sorprendenti, però magari ci torniamo più tardi, che insomma è anche un argomento un po' complicato. Io mi soffermerei sul fatto che insomma dopo 4 anni la mobilitazione è ancora in piedi, e il problema, quello che a noi in particolare al coordinamento e a tutti i comitati adesso preme di più, è cercare di bloccare questo ampliamento della discarica, alla luce anche del drammatico fatto che questo ampliamento è avvenuto in una maniera assolutamente sconcertante. Questo settima buca sorge a ridosso della Via Ardeatina, ma quando noi diciamo a ridosso, purtroppo è veramente a ridosso, cioè un muro di terra a 5 metri dalla Via Ardeatina, e il borgo, il gruppo di case più vicino, dista 170 metri dalla buca. Questa distanza, oltre a non essere assolutamente regolamentare dal punto di vista della legislazione che regola, insomma, prevede che la distanza minima sia 200 metri, anche se diciamo una vecchia legge regionale prevedeva che diciamo le distanze minime fossero 1000 metri, è stato fatto un cambiamento diciamo di distanze proprio dalla vecchia giunta regionale Marrazzo del PD, che proprio sulla buca di Roncigliano diciamo ha portato le distanze da 1000 metri a 200 metri. Però nonostante questo tentativo, le prime abitazioni, come dicevamo, sono ancora al di sotto di quella che è la normativa vigente, ovvero 200 metri, perché la prima abitazione si trova a 170 metri. Questo tra l'altro poi noi contestiamo anche il fatto che la decisione presa in consiglio regionale dei 200 metri non è nemmeno valida, perché non è passata per il consiglio regionale, ma sono indicazioni che date direttamente dal commissario straordinario dei rifiuti, che all'epoca era Marrazzo, senza che poi è stata fatta una votazione in consiglio regionale. Quindi sono proprio dei punti di riferimento, se vogliamo dire, dei punti di indicazione che sono stati dati dall'allora presidente della regione in qualità di commissario dei rifiuti. Quindi anche sulla validità di questo spostamento dai 1000 metri ai 200 metri ci sarebbe da discutere e da indagare meglio a livello legale, perché nessuno ce lo garantisce. Insomma. Però e visto che insomma l'avete citato, visto è vero che insomma avete portato in studio un po' di materiale, io vi chiederei pure magari di dire due parole sul fatto, insomma, che Marrazzo in questi giorni si è riproposto invece leader delle proteste contro le discariche, cosa che magari ci può aiutare anche a fare un quadro per inserire questo allargamento della discarica di Roncigliano. Sì, Marrazzo diciamo è stato la figura protagonista per quanto riguarda tutta la prima parte del leader approvativo per quanto riguarda sia l'inceneritore di Albano che in parte anche l'ampliamento della discarica di Roncigliano, perché era fermamente convinto lui e la sua giunta insieme a Di Carlo e altri esponenti del PD, che insomma allora più spingevano per la realizzazione di questo impianto, di riuscire a realizzarlo, diciamo, anche perché aveva dalla sua l'imprenditore Mario Cerroni, che sarebbe stato il costruttore. Adesso poi insomma Marrazzo quindi è stato uno di coloro che più hanno spinto per la realizzazione di impianti di incenerimento nel Lazio e per l'ampliamento di alcune discariche. Voglio solo ricordare il piano regionale dei rifiuti, che è uscito nel giugno del 2008, che diceva appunto di ampliare l'impianto di San Vittore, ampliare l'impianto di incenerimento, intendo di Malagrotta, che lì è per l'esattezza di gassificazione, e poi ampliare le linee di Colleferro, dove poi successivamente ci fu lo scandalo e diversi dirigenti furono indagati perché bruciavano rifiuti che non erano consoni, diciamo, alla normativa. E oltre a questo si prevedeva l'allargamento della discarica di Guidonia, l'allargamento della discarica di Albano e di altre discariche in Violata, eccetera, quindi per un totale di 300.000 metri cubi di nuove discariche. Quindi ci fa ridere vedere Marrazzo nelle strade di Riano a fianco ai comitati che protestano, e ci sorprende anche che i comitati che protestano in qualche modo accettino la sua presenza all'interno del corteo, perché evidentemente non conoscono bene la sua storia, proprio perché diciamo è stato uno tra i maggiori promotori di discariche e inceneritori, e adesso si, per visibilità non so o altro, si mette nelle strade di Riano a dire che lui è contrario all'ampliamento di queste discariche, quando è stato uno dei primi invece a volerlo con il suo piano regionale dei rifiuti. Sì, tecnicamente Marrazzo è il responsabile unico di questa situazione, perché lui ha emanato un decreto di pubblica utilità, che è un atto normativo che bypassa tutta una serie di che bypassa il procedimento ordinario per costruire un inceneritore o una discarica, accollandosi sulle sue spalle la responsabilità completa di questa operazione. Quindi è ancora a maggior ragione assolutamente inspiegabile come poi ti presenti da cittadino, come scrivono i giornali il 9 ottobre, alla manifestazione contro la discarica al paese dove abita lui. Ho capito che nessuno vuole le discariche sul proprio territorio, però te proprio non ci devi aprire bocca, perché è evidente che ha già combinato tanti disastri e non c'è proprio diritto di parola. Poi tra l'altro questo aspetto fa entrare in gioco altri aspetti che non sono proprio secondari, cioè il fatto che la componente del PD e il giornale Repubblica spingono parecchio e pompano le manifestazioni contro le discariche proposte dalla giunta di centrodestra della Polverini, che mira a scippare fette di mercato a Mario Cerroni, quindi pompano queste proteste e poi magari oscurano le proteste che avvengono contro le discariche già di proprietà di Mario Cerroni. E quindi c'è questa ambiguità che purtroppo poi magari le popolazioni di Riano, le popolazioni che vedranno la nascita delle nuove discariche, pagheranno molto salatamente, perché al momento buono, e probabilmente il momento buono sta arrivando perché Cerroni ci informa che si è comprato un bel po' di robetta a sti giorni, al momento buono il PD scarica le proteste e passa la linea di Cerroni, che è il loro referente sull'argomento e anche loro finanziatore di campagne elettorali e quant'altro. Quindi insomma al comune di Riano, la popolazione di Riano, a Fiumicino e anche a Corcolle, che invece è la zona sud di Roma, devono stare molto attenti a insomma come verranno indirizzate le proteste nei prossimi mesi, perché rischiano insomma di prendere una bella cantonata. Tornando comunque invece alla situazione di Albano e di Roncigliano, giusto per fare una breve cronistoria di quella che è la discarica, questo ampliamento di questa buca che è il settimo invaso, tra l'altro è l'invaso numero 8 in realtà, perché si comincia a contare dall'invaso 0, è l'invaso di una discarica grande, all'incirca 500.000 tonnellate di rifiuti dovrà ospitare, e quindi grande all'incirca 4-5 campi da calcio, una buca profonda una trentina di metri che, come si vede, come si diceva, sta in prossimità di via Ardeatina, e quindi passando su quella via si vede veramente una sorta di piccola collina enorme che è scavata al suo interno per ospitare questi rifiuti. Sono 30 anni però che questa discarica va avanti, 30 anni che questa discarica in qualche modo inquina tutti i territori circostanti, comprese le falde acquifere, l'aria e il terreno, perché ci sono stati anche degli studi fatti sia dall'azienda stessa che, diciamo, dalle autorità competenti in materia ambientale, che hanno fatto le analisi delle acque sulle falde acquifere della discarica, prelevando dai pozzi spia, che sono proprio dei pozzi per monitorare, diciamo, la situazione delle falde acquifere nella discarica. Il risultato di queste analisi fatte proprio dall'azienda, quindi dalla stessa gestrice, lo stesso gestore della discarica di Roncigliano. Allora, l'azienda che fa le analisi per la discarica di Roncigliano è la Ecoservice SPA di Pomezia, che comunque diciamo, si appoggia, alla quale si appoggia Cerroni e la Pontina Ambiente, che è la proprietaria della discarica. Da queste analisi si vede praticamente che l'arsenico, il cloroformio e il ferro sono tutti al di sopra dei limiti di legge. Quindi l'arsenico è un materiale anche, diciamo, oltre che velenoso, cancerogeno. Il cloroformio è velenoso, il ferro è un metallo pesante che tende ad accumularsi nell'organismo. Quindi, diciamo, le falde acquifere sono totalmente contaminate, e non è che lo dice l'ARPA, lo dice l'ASL, lo dice l'azienda che fa dell'analisi delle acque, di cui si è servita Cerroni, si è servito Cerroni per fare questa analisi, della serie oste com'è il vino, fa schifo, cioè, diciamo, quindi più di così, come certificazione del fatto che quel territorio è massacrato, non so che altro prendere. In più, ovviamente, la qualità dell'aria stessa in quella zona è diventata davvero irrespirabile da quando che è stato aperto questo invaso, e quindi parliamo di fine luglio, primi di agosto. C'è un odore, un malodore che è veramente insopportabile, c'è una puzza che le persone che abitano lì vicino, uno dei primi posti intorno a quella zona è Villaggio Ardeatino, non possono davvero aprire le finestre di casa, non possono invitare persone per mangiare fuori all'aperto, hanno dei figli, hanno una vita da condurre, e molte di loro si stanno sentendo male, tanto che ci sono tantissime segnalazioni ai pronti soccorso locali, praticamente, proprio perché comunque c'è chi ha sviluppato forme allergiche, chi a livello cutaneo, chi invece ha avuto dei conati, chi si è sentito male in altro modo, e quindi si sono andati a far refertare, e questa cosa un po' è risultata. E proprio per questo motivo, diciamo, con il comitato siamo andati qualche tempo fa, mercoledì 12 un paio di volte. Ottobre, un paio di volte, sia dalla direzione sanitaria, dal dottor Cicogna, che dal dipartimento di prevenzione, il dottor Messineo, proprio per segnalarli, che sono comunque dell'ASL RMH, per segnalar loro questa situazione sanitaria, se vogliamo, perché le persone si stanno sentendo male, completamente inaccettabile, e diciamo loro, come al solito, hanno detto che insomma cercheranno di intervenire, cercheranno di fare i loro rilievi, di contribuire quanto possono, e poi magari ne riparliamo dopo la pausa musicale. Sì, mi pare insomma che è uscito un quadro abbastanza composito, da discariche vecchie che vogliono essere allargate, discariche invece nuove, interessi politici contrapposti, un dibattito politico che parla parole diverse da quelli che poi sono gli interessi reali in campo. Io adesso andrei a sentire magari una canzone, fare un piccolo break musicale per poi iniziare a entrare proprio nello specifico di tutte le questioni che abbiamo già iniziato a porre insieme. Thank you.

amministratori vari si riempiono la bocca dicendo che ad esempio i rifiuti che andranno nelle nuove discariche saranno solamente rifiuti non differenziabili, ma in realtà se andiamo a vedere nel Lazio gli impianti di trattamento ce ne stanno veramente pochissimi, ce ne sta proprio una quantità esigua, solamente tra l'altro per alcuni materiali, plastica e carta e vetro, però per altri materiali bisogna andare al di fuori del Lazio, e quindi insomma una delle prospettive alle quali uno dovrebbe puntare è anche riuscire a ottenere un sistema di gestione diversa con degli impianti. E quindi scusate se banalizzo per cercare di capire, diciamo che tutte le questioni che ci state dicendo adesso all'ordine del giorno non esistono proprio, cioè esistono dei conflitti nella classe dirigente su come gestire questa emergenza, ma assolutamente non riguardano le cose di cui stiamo parlando adesso, cioè riuscire a affrontare in maniera sistematica il problema dei rifiuti e salvaguardare la salute dei cittadini. Sì, la questione è sempre quella che proprio nella visione un po' capitalistica poi anche della gestione di questa risorsa, alcuni la chiamano risorsa, altri la chiamano merce, insomma comunque di questo materiale che sono i rifiuti che inevitabilmente vengono prodotti in questo tipo di società, si pensa sempre prima a sfruttare fino all'osso una modalità, un modus operandi che è quello delle discariche e degli inceneritori fino a trarne il massimo profitto, e poi probabilmente quando il mercato sarà saturo, perché ce ne saranno così troppe, perché comunque come già è successo in altre località, gli inceneritori per esempio non bruceranno più la quantità di rifiuti che, per la quale sono stati costruiti, lo stesso inceneritore di Acerra diciamo non funziona a regime perché non ci sono tanti rifiuti da bruciarci, quando il mercato probabilmente sarà saturo e quindi non sarà neanche più conveniente a livello economico far bruciare rifiuti negli inceneritori perché il costo di gestione sarà superiore a quello delle entrate, probabilmente in Italia si penserà a qualcosa di diverso, a meno che le lotte, le mobilitazioni e insomma tutto quello che si riesce a mettere in campo non riuscirà a cambiare questo tipo di direzione, perché politici e amministratori non se lo pongono proprio, sembra il problema, nonostante si riempiano la bocca dicendo che facciamo la raccolta differenziata. A Roma, per dirne una, la raccolta differenziata sta attualmente all'incirca intorno al 10-20% e dovremmo arrivare, secondo gli standard della Comunità Europea, al 65% entro il 2012, che insomma è un obiettivo buono, quello del 65%, però ambizioso per arrivarci in un anno, soprattutto leggendo un piano di rifiuti che non prevede una raccolta differenziata, non prevede impianti di riciclaggio. Quindi che succederà? Che noi arriveremo al 2012 con una raccolta differenziata forse del 30% e verremo tassati dalla Comunità Europea perché non avremo rispettato poi quelli che sono i loro limiti. Ma noi preferiamo pagare le tasse alla Comunità Europea piuttosto che comunque pensare a una gestione diversa, perché intanto facciamo mangiare Cerroni, facciamo mangiare tutti gli amministratori politici industriali che sono implicati in questa cosa fino a che diciamo sarà possibile. Scusa l'ignoranza, ma quindi cioè, questa cosa non ci sono gli impianti vuol dire che se anche noi raggiungessimo il 65% di raccolta differenziata in realtà ce l'avremmo in faccia? Esattamente. In realtà dovremmo andarla a riciclare diciamo fuori dal Lazio, cioè, o comunque grossa parte di essa dovremmo riciclarla fuori dal Lazio, perché nel Lazio attualmente non ci stanno tutti questi impianti. Sì, se uno insomma prende le percentuali e insomma si fa un calcolo, la Comunità Europea insomma dice di arrivare intorno al 60% di raccolta differenziata. Questo 60% è composto dal 30% che è la parte umida, che va nei centri di compostaggio per fare il compost, che è il terriccio, cioè rigenerare terriccio. E l'altro 30% è carta, plastica, legno e derivati della carta, che sono i materiali più riciclabili. E quindi si capisce perché la Comunità Europea dice di arrivare al 60%, cioè un 30% di umido e un 30% di quest'altri materiali. Questa situazione è assolutamente allucinante, visto che si continua a parlare di costruire inceneritori che bruceranno proprio quel 30% che è riciclabile, cioè carta, plastica, e legno e derivati del legno. Quindi è assolutamente controproducente continuare con la politica di discariche inceneritori se si vuole cambiare direzione, perché una esclude in maniera inevitabile l'altra. Non è possibile parlare di raccolta differenziata se poi dopo la raccolta differenziata tu ti predisponi con inceneritori e discariche, cioè non c'è proprio nessuna logica in questo. L'unica logica è appunto lo scontro in questo momento nel Lazio per accaparrarsi questo mercato e lo scontro appunto per continuare a fare profitti. E non è un caso che Mario Cerroni, come su tutti i giornali oggi, si è comprato i terreni che insomma di Quadroalto, che insomma era una delle località menzionate dalla Polverini, perché il mercato dei rifiuti dà a questi signori una liquidità, una capacità monetaria veramente importante, che di questi tempi poche persone ce l'hanno. C'è la crisi, ci stanno vari problemi, chi gestisce i rifiuti ha a disposizione una liquidità veramente importante e la può spendere per continuare a riprodurre questa dinamica. E quello che ha fatto Mario Cerroni in questi giorni, cioè di comprarsi questi terreni, è il chiaro segnale di una contromossa rispetto invece alle decisioni prese dalla Polverini di cercare di scippare fette di mercato a questa lobby per alimentare la sua lobby. E quindi insomma c'è stata questa risposta. Anche perché, diciamo per chiarezza, che Cerroni appartiene a tutta quella cordata industriale che invece è antagonista al PDL, molto più vicina al PD, tant'è che invece quando c'era nel consiglio regionale Marrazzo si parlava molto frequentemente soprattutto di Caro, diciamo era uno dei bracci destri di Cerroni, e invece da quando che praticamente c'è la giunta Polverini si sta cercando di metterlo da parte, di isolarlo il più possibile, tanto che si legge dalle dichiarazioni della Polverini il fatto che lei non sopporti che Cerroni sia il monopolista dei rifiuti nel Lazio, quando probabilmente se fosse stata una persona della sua cordata industriale, diciamo così, invece sarebbe andato bene, perché un altro dei problemi è proprio il fatto che Cerroni continua ad avere il monopolio nel Lazio, e quindi anche questo libero mercato di cui tanto si parla e ci si riempie la bocca nella società capitalista, in realtà non c'è, c'è uno stato di monopolio totale, tanto che, come accennavamo, appena si è saputa la notizia che uno dei siti considerati idoni da Pecoraro, che in questo momento è commissario straordinario dei rifiuti per il Lazio, era Riano, ovvero Quadroalto per l'esattezza, Cerroni il giorno dopo è andato lì da il principe, perché era di proprietà di un principe, e si è comprato il terreno. Poi è tornato nella regione, in particolare durante un'audizione alla commissione parlamentare sulle ecomafie, tra l'altro sulle ecomafie, ha detto: ma lo sapevate che il terreno di Quadroalto è mio, dove volete fare la discarica? E quelli hanno fatto: ah, davvero, è tuo? No, non lo sapevamo, a dire la verità. Quindi, e su Cerroni, insomma, che è un personaggio che allieta la rassegna stampa il giovedì mattina ormai con una cadenza fissa, tanto che abbiamo dedicato una rubrica che sia proprio l'angolo di Cerroni. Io direi di ascoltare una telefonata, perché ci hanno raggiunto al telefono un radioascoltatore che vuole dare un contributo. Pronto, ci senti? Sei in linea? Sì, sì, sono in onda. Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Niente, io seguo queste tematiche, queste problematiche da molto tempo, quella dei rifiuti. Ho fatto parte anche della struttura diciamo municipale della zona di Malagrotta, e queste problematiche le conosco, le ho conosciute, mi ci sono battuto il grugno, perché c'è una omertà, una mafia molto molto forte su questo, che è al limite della pericolosità per l'incolumità personale. E Cerroni, che si fa chiamare avvocato ma non lo è, è un gran furbone, perché veramente ha scoperto non solo l'uovo di Colombo, ma come sovvertire le leggi della fisica, perché lui produce più di quello che gli arriva. Quindi veramente è un mago in questo, e lo fa ovviamente a scapito di quello che è la realtà di una soluzione correttamente tecnica. Io vorrei dirvi, questo discorso che state facendo in questa seconda parte della trasmissione è il vero e unico discorso fondamentale. Non si deve dire no così alle discariche perché c'ho la puzza vicino casa, anche se è assolutamente nociva e va assolutamente allontanata e eliminata, ma bisogna dirlo proprio perché non può e non deve essere l'unica, perché di fatto è l'unica soluzione praticata dal sistema proprio della produzione per smaltire il proprio rifiuto, per cui la responsabilità prima deve essere data alla produzione di dove vanno a finire ciò che viene prodotto. Perché il prodotto è comprensivo del rifiuto, già mentre che lo crei. Ad esempio gli imballaggi, per cui il discorso deve essere quello assolutamente della riduzione e del riuso delle materie. E purtroppo abbiamo qualche problema di collegamento, proviamo a ricollegarci, nel frattempo continuiamo, insomma mi pare che gli stimoli che venivano stanno nella direzione delle cose che stavamo dicendo in qualche maniera. Certamente, insomma, sicuramente appunto la riduzione complessiva dei volumi e delle quantità di immondizia devono partire dalla produzione, perché questo è l'unico modo poi per sganciarsi dal ricatto, perché poi parliamo proprio di un ricatto, perché insomma chi gestisce le discariche al momento giusto ricatta, dal ricatto di questo tipo di smaltimento. Se io ti blocco lo smaltimento di rifiuti, come noi tutti sappiamo bene, le conseguenze per le strade delle grandi città o dei paesi, insomma, è quella di ritrovarsi l'immondizia in giro. Quindi insomma è un metodo abbastanza collaudato quello di a un certo punto di scattare e fare e ricattare. Bisogna sganciarsi da questa dinamica per non essere più ricattabili. Non essere ricattabili le amministrazioni locali, ma insomma per quanto ci riguarda il ricatto poi ricade su tutta la popolazione che paga le conseguenze appunto della devastazione ambientale di queste discariche e di questi inceneritori. E quindi insomma la necessità sicuramente di investimenti che vadano in un'altra linea, cioè su un altro quadrato, cioè su un altro tipo di smaltimento dei rifiuti e sulla riduzione a monte della produzione dei rifiuti. Questo qui logicamente è un discorso molto annoso e complicato, perché insomma investe in pieno le dinamiche di produzione capitalista, il consumismo e insomma anche come si produce, per quale finalità si produce. E questo è un piccolo tassello di questo discorso generale che va affrontato e attaccato su tutti i punti di vista, non soltanto dal punto di vista dello smaltimento, che è soltanto una frazione del ciclo di produzione, insomma, del capitalismo. Piccola postilla, diciamo, per tornare anche al discorso del piano regionale dei rifiuti, una delle cose da fare sarebbe, nel quadro della differenziata, fare una differenziata che sia porta a porta, cosa che non è stata minimamente contemplata da questa giunta, perché si parla ancora di differenziata generica, che significa campane per strada, con le quali si arriva al massimo a 20-30%, quindi fino a che non verrà usato un sistema diverso, questo 65% al quale si vuole arrivare entro il 2012 sarà impossibile. Tra l'altro, per quanto riguarda Roma, ci sarebbe da fare una puntata specifica su come vengono gestiti i rifiuti all'interno di Roma, sia nel centro storico che fuori, perché noi abbiamo una città dove ci stanno al tempo stesso all'incirca 4 metodi di raccolta diversa, che sono quella differenziata porta a porta, quella differenziata alle campane, il metodo carretta a carretta e un altro metodo ancora che è simile. Quindi anche gestire una città con 4 metodi diversi non è una cosa del tutto semplice, neanche forse la più intelligente che si potrebbe fare. Quindi fino a che anche la giunta regionale e il comune di Roma non penseranno con l'AMA a gestire la raccolta differenziata in maniera diversa, diciamo, questi obiettivi restano solamente parole vuote al vento, perché non ci si arriverà mai. Eh sì, insomma, diciamo che negli ultimi interventi che abbiamo fatto, che avete fatto, avete indicato un pochino la data del 2012 come data in cui raggiungere questo obiettivo dell'Unione Europea per il 60% di raccolta differenziata, come abbiamo sentito, appunto assolutamente lontano dalla situazione che viviamo in questa città e dalle prospettive che il piano rifiuti regionale apre. Ma nel piano rifiuti regionale il 2012 è una data importante anche per un altro motivo, è la data insomma entro cui in teoria dovrebbe chiudere anche la discarica di Malagrotta, il condizionale d'obbligo, visto che ai rinvii siamo abituati. Chiusura della discarica di Malagrotta, che ha generato tutta una serie di dibattiti e di polemiche, che sono quelle che poi sono relative all'individuazione dei nuovi siti, di cui abbiamo già iniziato a parlare, su cui, se non siete contrari, dopo un'altra pausa musicale possiamo andare a approfondire. Chiamiamo Daniele. Ma tu scavi e adesso penso che quasi ci speravi. È come fosse quello che volevi, tu al centro dello schermo in mezzo a tutti gli altri scemi. È il giorno fortunato, il viaggio organizzato, il tutto programmato. Una bella spiaggia, il mare incontaminato e a pranzo filetti di merluzzo sul gelato. Ma tu ridi, stanno cercando un ottimista, vogliono un vincente ed entusiasta, e tu sei già in pista per la tua esibizione. Parli del mio bene, scegli nel mio nome e poi mi dici tutto a posto. Ti guardo e capisco che ci stai prendendo gusto col tuo sorriso per cui tutti vanno pazzi. Ci vendi a tracce dopo che ci hai fatto a pezzi, ed ogni giorno è un buon giorno, tranquillo, contento, sicuro per il tuo investimento. Basta un sorriso e il pranzo è pronto, e tanto c'è uno stronzo che quando te ne vai ti paga il conto. Sorridi, ma tu vuoi tutto e subito. Sorridi, tu vuoi soltanto un pubblico. Sorridi, tu vuoi che manco giudico. Sorridi, tu vuoi che manco pubblico. Sorridi, qui tutti piangono, tu ridi. Come una iena segui i passi dei feriti, per quel che accade tutti restano atterriti. Ma tutto ti va bene quando scansi pizzi e crisi. Stringo la cinta e pantaloni, tu stringi mani e conti tutte le anime e milioni. Zero soluzioni, solo assi di bastoni, ma tu spingi il tuo ego verso altre dimensioni. Amici elettori, repressione, repressione, lo stesso controllato, il controllore che da sfilze di notizie buone alla nazione. E sta dalla mia parte qualunque sia il copione in questione. Arte, oratoria la mia, la torre a giro, la tragicomica che vedo in giro. Un aspetto finto trascende dal vero. Sorridi perché sai che tanto tu starai tranquillo e sicuro. L'inverosimile ci domina, ingoia poi rivomita, è la città dei Flanders si popola. La fiction che vivo mi limita, rinchiude la mia lirica, ma tu sorridi e qui nessuno dubita. Sorridi, ma tu vuoi tutto e subito. Sorridi, tu vuoi soltanto un pubblico. Sorridi, tu vuoi che manco il giudico. Sorridi, tu vuoi che manco il pubblico. Sorridi, e tutto gira a tuo favore, la lancetta che si mangia il contatore, la fretta del tuo mondo in promozione, l'arroganza di quando mi fai fuori e mi uccidi a colpi di maggioranza. E vivi fra cerimoniali e miti e riti collettivi in cui fiuti il sangue e ridi. Dovunque c'è da togliere ci trovo i tuoi motivi, dovunque c'è da prendere tu arrivi. Ma quanto costa e dove sta la morale in questa farsa da telegiornale? Sto a guardare con la censura che mi corre appresso come un cane. Un muro senza gloria nei colori, solo molta fame. Qui l'ombra è sopra la contea ed ogni buona idea va in avaria nella marea. Sorride pure in sogno la tua malattia, sulla mia via paghiamo con il sangue, compriamo ipocrisia. Sorridi, speculi, incassi, raggiri, brogli, confondi, poi piangi e mi dici che è tutto fatto in nome dei miei interessi. Mi parli del nuovo ma vedo sempre gli stessi. Sorridi, ma tu vuoi tutto e subito. Sorridi, tu vuoi soltanto un pubblico. Sorridi, tu vuoi che manco giudico. Sorridi, tu vuoi che manco dubito. Torniamo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Stiamo facendo un approfondimento su quella che è la situazione dei rifiuti nella regione Lazio e in questo momento ci siamo messi in collegamento con il legale del coordinamento contro l'inceneritore di Albano. Ci dovrebbe sentire, ciao Daniele. Sì, ciao Gino, buongiorno. Buongiorno, con te volevamo finire questo quadro per quanto riguarda la questione di Albano e poi passare invece a quella che è la zona più a nord, quindi nord-nord-est, quindi le discariche di Riano e di, diciamo, Corcolle, nonché quella di Fiumicino invece, che dovrebbe essere quella definitiva. Però prima ti chiediamo appunto di completare il discorso che abbiamo fatto su Albano raccontandoci quella che è un po' la situazione legale brevemente, visto che il corteo di sabato si farà il 22 proprio perché il 27 ci sarà il ricorso al TAR, al Tribunale Regionale, proprio sull'ampliamento della discarica di Roncigliano, contro il quale sono stato presentato un ricorso diciamo molto, molto articolato su varie questioni, e quindi vorremmo un po' che tu ci parlassi di questo e eventualmente nella seconda parte possiamo invece analizzare la manifestazione che c'è stata ieri al Consiglio regionale. Sì, guarda, intanto come avete ricordato più volte, sabato prossimo 22 ottobre alle 15.30 ci vedremo a Piazza Mazzini ad Albano. Piazza Mazzini che si trova sulla direttrice Appia, quindi uscendo dal raccordo, ve lo dico perché tante persone ieri al Consiglio regionale mi chiedevano come arrivare a Albano, dal raccordo uscita Appia o direttamente dalla via Appia. Sì, pronto? Pronto? Sì, ci sei. Dalla via Appia si arriva direttamente su Piazza Mazzini ad Albano, 15.30 sabato 22. Questo nuovo corteo per il 22 è legato anche all'udienza del 27 ottobre che ci sarà giovedì alla prima sessione del TAR Lazio. Tanti punti in discussione, forse uno dei principali che io vi dico è la questione distanza, l'ampliamento della discarica di Albano che raccoglie i rifiuti indifferenziati dei 10 comuni, dista 179 metri dalla prima casa, dalla prima abitazione del locale Villaggio Ardeatino. Questi 179 metri sono veramente un'eccezione, una presenza unica in Italia. Il limite imposto dalla legge regionale di distanza è di 1000 metri. Carissimo dirigente della Regione Lazio, dottor Fegatelli, autorizzò l'ampliamento di questa discarica a 200 metri senza alcun riferimento né legislativo né politico né amministrativo, e addirittura anche questa distanza impropria dei 200 metri è stata violata, quindi parliamo di 179 metri di distanza. Tantissime anche le considerazioni. Consideriamo che la via sia frutto di una serie di forzature politiche istituzionali veramente inverosimili. C'è la questione dell'assenza in discarica dei pozzi spia di controllo della qualità delle acque, Castelli Romani siamo in assoluta emergenza idrica, e c'è la questione dell'assenza delle centraline di controllo della qualità dell'aria. Quindi è una discarica gestita in maniera totalmente illegale, a nostro avviso. Se ne vuole, tra l'altro, una discarica di Albano venne installata in questa zona in mezzo a vigneti uliveti ad Albano nel 1979, quindi la discarica è 5 anni più vecchia di quella di Malagrotta, e questo ampliamento giustificherebbe un'ulteriore sopravvivenza della discarica per altri 10 anni. Quindi questi i motivi principali di obiezione che solleveremo il 27 ottobre al TAR. Senti, invece, per quanto riguarda la questione, come accennavamo prima, delle discariche invece che dovrebbero sorgere nel quadrante a nord di Roma, ieri c'è stata una manifestazione del Consiglio regionale indetta dai comitati di Riano, Corcolle e Fiumicino, alla quale tu hai partecipato. Vorremmo sapere com'è andata e cosa è uscito da questo Consiglio regionale dei rifiuti straordinario, che era proprio su questa questione specifica delle nuove discariche. Sì, diciamo che una delegazione del coordinamento contro l'inceneritore d'Albano ieri si è recata al Consiglio straordinario sui rifiuti della Regione Lazio. Abbiamo avuto contatti con tutte le realtà di protesta che stanno nascendo nella zona di Roma Nord, Roma Nord-Est, di Fiumicino. Innanzitutto, insomma, c'è stata una piacevole conoscenza da parte di tutti della questione Albano. Hanno ribadito la loro presenza al corteo del 22 ad Albano, perché appunto Albano è riuscita a fermare il senatore, almeno per il momento, di Cerroni, il senatore che era frutto appunto di un commissariamento, quello di Marrazzo. E anche in questo caso, insomma, la regione tenta la mossa del commissariamento del prefetto di Roma per risolvere la questione cosiddetta emergenza rifiuti. I problemi, insomma, sono stati molteplici. Le mozioni della minoranza diciamo sono state per certi versi, insomma, problematiche tanto quanto, insomma, il problema così come affrontato dal delegato dei rifiuti di Paolo Antonio, nel senso che addirittura c'è stato chi ieri in mozioni presentate dall'opposizione al voto del Consiglio regionale ha sostenuto che i centri di riciclo integrati a freddo tipo Vedelago, per capirci, sono praticamente la stessa cosa rispetto agli impianti TMB di trattamento meccanico biologico a freddo, ossia praticamente quella preselazione che porta alla produzione del CDR che viene per legge bruciata negli inceneritori. Quindi quello che sembra veramente molto chiaro, tranne pochissime eccezioni, è che la linea che si intende seguire da parte della Regione Lazio è quella di continuare a gestire e chiudere il ciclo dei rifiuti attraverso appunto impianti di pretrattamento per la produzione di CDR che poi per legge viene destinata alla combustione, attraverso nuove buche di discariche indifferenziate che chiamano però discariche per rifiuti non pericolosi. Ditemi voi se, insomma, oli combustibili, batterie delle macchine, gomme degli autoveicoli, automezzi sono rifiuti non pericolosi e inceneritori. Insomma, la linea è sempre questa: discariche, inceneritori, a cui si aggiunge adesso il TMB che viene spacciato come un impianto a freddo, mentre invece appunto è soltanto il primo passo industriale per l'incenerimento. Senti Daniele, guarda, purtroppo ci sono un po' di problemi col maltempo, con le linee cellulari, quindi gratta un pochino, ma noi dovremmo chiedere, insomma, qui la notizia di oggi, quella, insomma, del giorno, che Cerroni si è comprato questi nuovi terreni proprio a quadro alto vicino Riano, che erano proprio i siti indicati dalla Polverini, no? Sì, questa cosa insomma è un po' sconcertante, perché insomma si sta facendo una lotta intestina dentro i vari lobby che sperano insomma di controllare il mercato dello smaltimento dei rifiuti, e non c'è una parola sulle conseguenze di continuare a perpetrare questa politica, cioè i danni, le conseguenze che l'ambiente e le popolazioni che avranno dalla presenza dei discariche inceneritori. Si tace, e invece scoppia la bagarre e anche la polemica politica su chi si dovrà accaparrare queste, insomma, queste fette di mercato, perché insomma è evidente che qui stiamo a parlare di una guerra per fette di mercato. Quindi insomma l'ultima manovra, quella di comprarsi questi terreni e poi presentarsi in commissione parlamentare contro sulle ecomafie, è veramente allucinante. Cioè siamo proprio a uno scontro abbastanza, sì, no, parte becero, ma anche proprio siamo proprio a livello di uno scontro frontale tra gruppi di potere che insomma stanno ai ferri corti. Sì, sembra di sì, sembra da dati molto certi. Ho visto gli estratti catastali del 18 ottobre che questi terreni fossero stati da più di un mese opzionati già dall'avvocato Ceroni, quindi parlo di Quadro Alto Ariano, sì. e acquistati definitivamente dopo, quindi il diritto d'opzione di un mese fa, acquistati definitivamente all'incirca 10 giorni fa. E mi risulta che oltre a Quadro Alto, Ceroni si stia muovendo anche in zona Fiumicino per l'acquisto dei terreni che appunto la regione vorrebbe come sito definitivo alternativo a Malagrotta, quindi per Malagrotta bis, e dove si parla anche della questione relativa alla diciamo localizzazione del futuro inceneritore, così dicono, futuro impianto di incenerimento alternativo al bando, nel caso in cui il Consiglio di Stato lo bocciasse. Quindi sembra che Cerroni si stia muovendo come al suo solito, appunto, da monopolista del mercato della gestione del ciclo dei rifiuti da più di 30 anni, si stia muovendo appunto con ancora investendo sulla carta del monopolio, appunto, che passa come dal 1984 per Roma, ossia da quando è stata aperta la discarica di Malagrotta, per nuove buche e nuovi impianti di incenerimento. Tanto per capirci, insomma, il caro Cerroni, leggevo sulla stampa stamattina addirittura nella zona dei Monti dell'Ortaccio, cioè una zona adiacente praticamente a Malagrotta, nonostante non ci siano autorizzazioni amministrative da parte di alcun ente pubblico, continua a diciamo preparare un nuovo mega invaso per raccogliere pensiamo insomma rifiuti, anche perché non credo che si stia costruendo la piscina di casa. Quindi sulla stampa si lamentava il fatto che addirittura senza titoli autorizzativi questo si permettesse di costruire un nuovo impianto, appunto una nuova discarica per raccogliere i rifiuti senza che nessuno vada lì a fermarlo, cosa che avviene anche ad Albano. Insomma, posso confermare che c'è la costruzione del secondo sublotto, del settimo invaso, quindi la seconda parte dell'ampliamento della nuova discarica, nonostante l'AIA, ossia l'autorizzazione integrata ambientale, sia scaduta dal 13 luglio del 2011 e nessuno se ne accorge. Quindi sembra che gli enti preposti ai controlli pubblici languano appunto così nell'incapacità di gestione della questione. Sì, insomma, le connivenze sull'argomento sono talmente complicate e intrecciate che insomma questo signore gode di una capacità di manovrabilità, di impunità assolutamente allucinante, e insomma ci fa abbastanza sorridere il fatto che cercano di sbatterlo fuori dalla porta e invece poi lui rientra dalla finestra comprandosi i siti che sarebbero serviti per farlo fuori dalla gestione del mercato dei rifiuti. È proprio una dinamica molto interessante. Daniele, ti volevo chiedere una cosa: questo fatto che Cerroni si è comprato la discarica di Quadro Alto vicino Riano, visto che ovviamente il prefetto Pecoraro aveva detto che sarebbe stata indetta una gara d'appalto per poi capire chi avrebbe gestito, diciamo, quelle due discariche, e adesso Cerroni si è comprato quella di Quadro Alto, comunque risulterà un favorito nella gara d'appalto oppure? Perché lui, ad esempio, dà queste dichiarazioni, ti dico, queste dichiarazioni sui giornali dicendo che lui per quanto riguarda, diciamo, questa discarica dice di aver titolo di farla per la legge comunitaria e nazionale, e quindi che nessuno glielo potrà vietare. Questo che vuol dire? Che potrà diciamo manovrare la gara d'appalto, oppure che comunque tramite la legislazione nazionale e comunitaria, essendo proprietario e già gestore dei rifiuti, potrà bypassarla e bypassare la gara d'appalto? Guarda, intanto cioè, veramente sembra strano che ci siano dei terreni opzionati da più di un mese e diciamo, il prefetto né la regione Lazio, insomma, che sta all'interno della vera bufera politica per la questione, insomma, rifiuti, almeno Roma, ma non solo. Sembra strano, insomma, che nessuno ne fosse accorto che questi avesse opzionato questi terreni e che adesso l'abbia legittimamente comprati attraverso una serie di contratti che addirittura già sono stati registrati dagli uffici catastali. Però insomma, diciamo che tant'è vero, insomma, che ieri c'era appunto l'estratto catastale con il passaggio definitivo di proprietà per Quadro Alto, ma di sicuro, insomma, leggo sempre dalla stampa che la Polverini a seguito, insomma, dell'intervento di un consigliere d'opposizione ieri al Consiglio regionale, in cui si faceva presente, si paventava, insomma, l'ipotesi di un possibile contatto fra Regione Lazio e monopolista dei rifiuti Cerroni, ha risposto dicendo che per il momento, insomma, si tratta soltanto di chiacchiere e di articoli di stampa, che sarebbe pronta che il prefetto più che altro sarebbe pronto ad un esproprio di quei terreni al fine di avviare le procedure per la gara, appunto, pubblica internazionale di cui parlava anche Di Paolo Antonio ieri al Consiglio regionale. Quindi quello che pare sicuro è che il monopolista dei rifiuti, che sembrava dagli articoli di stampa nelle ultime settimane un po' essere messo dal post Malagrotta, ad eccezione, insomma, dei prossimi 3 anni, ossia del periodo transitorio, invece, appunto, nonostante sia stato cacciato, ma poi è così veramente, ci chiediamo, dalla porta, rientra dalla finestra attraverso diritti di opzione, attraverso acquisti di terreni, parla appunto anche della zona di Fiumicino e di Pistoia e Prete, che deve essere ancora, diciamo, un quadro più inquietante sulla faccenda, che diciamo già non è di per sé rassicurante che si tratti di Riano, si tratti di Fiumicino, come d'Albano, appunto, come vi dicevo, in un quadro di assoluta incapacità degli enti pubblici di gestione e controllo degli aspetti, fra l'altro, che vengono considerati marginali, ma non lo sono, quale appunto rispetto alla salute pubblica e quadro dell'ambiente salubre. Allora, Daniele, insomma, ti ringraziamo per questo intervento e per le informazioni e il quadro che ci hai fatto su questa vicenda, che sicuramente da qui alla fine dell'anno, quando effettivamente Malagrotta, salvo una nuova proroga che è nell'aria tra l'altro, dovrà chiudere, sarà un argomento abbastanza scottante e di dibattito sia da questi microfoni ma anche, insomma, nei consigli regionali, visto, insomma, il peso e i problemi che ci sono. E quindi, insomma, ti ringraziamo e ci risentiamo prossimamente. Ricordiamo a tutti il corteo di sabato 22 a ore 15, Piazza Mazzini, Albano Laziale, sulla direttrice dell'Appia. Esattamente, vi aspetto alle 3:30 a Piazza Mazzini ad Albano. Allora, ciao e ci rivediamo presto. Ciao, grazie. Con lo stile che sblasta, guasta, devasta i cliché. Sul tempo adesso non do, senza prezzo manco mezzo di quello che c'ho. Sì, sul tempo io trovo i perché. Con lo stile che sblasta, guasta, devasta i cliché. Tutto come un ring, zio, sull'impianto. Tengo in ostaggio il microfono, con i massicci accanto c'è chi mi disprezza. Vorrebbe fottermi ma non mi spezza. Il colle del fomento è una fortezza. La parte che conosci meno sono, vogliono entrare nello zoo, ma noi per loro siamo un tarlo come spit per ramo. E sì che se la sudano, ma sudano in vano. Quando ci siamo nello zoo non possono, armamentario ritmico di ostacolo, reattivo come un elemento chimico. Mi vorrebbero sotto, ma resto, distruggo loro col mio passo, sicuro che li spezzo. Fresco. La base detta le parole, sopra questo beat, sotto il sole, cercando una dimensione. In questa storia non c'è gloria, le parole senza spessore perse nell'aria. Calamita, la mia, il microfono va sulle dita, la tua si attacca sulle corde, non doppia d'uscita. Più di prima, un altro round, un altro pezzo, un'altra cosa, un altro prezzo, un'occasione adesso, non sprecarla. Qualcosa vuole fottermi, io sto muovendomi in fretta per difendermi, devo affrontarla, eh sì, che la gente mia conosce il prezzo e lo paga, è il tempo che decide chi è destinato a fomentare questa saga. La tua gente nel mio mare affoga, c'è chi va solo sopra il tempo e invece chi la piega, la base, la fase in cui connetti frasi, la scansione più il senso, la differenza tra fischi e applausi. Un'altra giornata sprecata, la scelta o solo un altro colpo andato a segno alla svelta. Volo, accetto la sfida come impegno, la testa come ingegno, il rap come bussola per andare a segno. Un passo dopo l'altro fino al fine, per un massiccio che percorre strade e lascia mine. Su, mine, mine, mine, su, mine. Sul tempo adesso non do, senza prezzo manco mezzo di quello che c'ho. Sì, sì, sì, sul tempo io trovo il perché, con lo stile che sblasta, guasta, devasta i cliché. Muovo passi su vie illuminate da luce virtuale, nelle strade spie posizionate per controllare l'animale. Chiuso nella gabbia si muove non solo per fame, perché la ricerca è anche, ma non solo, materiale. Un senso, un prezzo dimenticato, un pezzo sbagliato che ha fulminato la macchina e ha generato una nuova stirpe, difficile da comprendere. Perciò i miei simili agiscono rapidi per non farsi prende. Mi dà forza, forza attingo dall'esterno. La forza che trovo mi rafforza nell'interno. Tutto l'odio che mi danno, scrivo mo rime che ti atterrano. Sdraiano perché fiaccano, talenti compromessi di contanti. Giocano uno sport il più violento tra i violenti. Pronti, noi siamo pronti all'occorrenza. Sì, qui sì, rompono facce per una questione di sopravvivenza. Eccoci, siamo arrivati già da tempo, i miei fratelli già nel campo. Sarà una notte in cui farà molto caldo, quando le luci illumineranno dall'alto il suolo. Saranno noi contro di loro, controllano rivolte, le vendono con uno spot o un video musicale. Poi piangono e accusano se qualcuno si fa male, regalano la violenza ai miei fratelli. Poi vogliono tenere fuori quelli che non sono buoni e belli. Dipingono un unico colore freddo, impongono non il perfetto, il più che perfetto, solo roba effetto. Zero sostanza, zero contenuto, ma l'animale nella gabbia si è svegliato, slegato, scendo in campo più veloce degli altri. Pio la palla al volo, pronto a macinare punti su punti, perché calma non c'è, pace non c'è, ma un massiccio sblasta, guasta, devasta i cliché. Per proporre ciò che è andato perso, pronto a ricomporre, il prossimo passo lo possono solo supporre. Sì, sì, sì, il prossimo passo lo possono solo supporre. Sul tempo adesso non do, senza prezzo manco mezzo di quello che c'ho. Sì, sì, sì, sul tempo io trovo il perché, con lo stile che sblasta, guasta, devasta i cliché. E allora torniamo in diretta agli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ne abbiamo parlato già a più riprese nel corso di questo spazio verso il corteo di Albano. Ma la grotta deve chiudere, ma la grotta deve chiudere, è una litania che affolla le pagine dei giornali ormai da anni. La data indicata in questo momento sarebbe il 2012, data che non è detto che poi sarà la effettiva data della chiusura della discarica, ma intanto si prefigurano scenari di nuove discariche nel Lazio. Anche intorno a questo c'è una confusione che forse vale la pena di chiarire. Eh sì, perché dal 31 dicembre 2011, quindi effettivamente dal 2012, Malagurata dovrà chiudere. Tra l'altro qualcuno ha detto che ci potrebbero essere possibili proroghe, ma lo stesso Cerroni dice di non avere più volumetria disponibile all'interno della discarica, e quindi effettivamente a suo avviso non sarà possibile neanche sversare, diciamo, una tonnellata in più di rifiuti rispetto a quella prevista. Nel frattempo, come abbiamo accennato, come abbiamo sentito dai giornali questi giorni, politici e imprenditori hanno fatto la corsa per trovare dei siti alternativi, e politicamente nessuno si è voluto prendere la responsabilità di designare e indicare un sito o più siti per una discarica. Quindi hanno pensato bene alla soluzione del commissario straordinario per Malagrotta, e quindi di conseguenza per le altre discariche, in modo da diciamo liberarsi da questa responsabilità politica e renderla una questione pressoché tecnica che poi ha deciso Pecoraro. Le discariche che sono state indicate, diciamo ormai definitive, sono, come abbiamo accennato, quella di Quadro Alto, che sta nel comune di Riano, e quella di San Vittorino Corcolle, invece, che sta nel comune di Roma, all'ottavo municipio, che sono però delle discariche, in teoria discariche provvisorie, che dovrebbero andare avanti per 36 mesi. Dopodiché però c'è un investimento su questi impianti che è all'incirca di 25 milioni di euro, Quindi ci viene da pensare, mai possibile che si investano 25 milioni di euro per 36 mesi? Quindi da qui a fare un po' l'avvocato del diavolo ci passa poco, e uno pensa subito che queste discariche non saranno affatto provvisorie, o quantomeno non dureranno 36 mesi ma dureranno molto molto di più, e forse qualcuna di queste diventerà definitiva. Quadro Alto è una zona che ha delle cave di tufo, quindi diciamo per questo permetterebbero di non fare ulteriori sbancamenti, mentre San Vittorino bisognerebbe proprio iniziare a scavare, e sono comunque tutte e due discariche anche molto vicino ai centri abitati, che accoglieranno, da quello che si dice dai giornali, circa 3,5 tonnellate di rifiuti, che sono quelle che produrrà Roma praticamente in 3 anni. E poi, finite queste discariche provvisorie, quindi passati 3 anni, dovrebbero fare una discarica a Pizzo del Prete a Fiumicino, che invece dovrà essere una discarica, diciamo, definitiva, quella sostitutiva vera e propria di Malagrotta. E quindi ovviamente tutto questo ha incontrato le contestazioni e le mobilitazioni sia della cittadinanza che dei sindaci di alcuni comuni, perché si sono riuniti 17 sindaci della Valle Tiberina contro il prefetto, hanno scritto una lettera. Il sindaco Marianella Riccieri di Riano dice: ho chiesto al prefetto di avere con lui un comportamento istituzionale, come si può sommergere un paese come Riano dall'immondizia di 2 milioni di persone? A dire Riano dovrà ospitare tutta l'immondizia sostanzialmente che proviene da Roma, e quindi sarà per un periodo di tempo comunque sostitutiva di Malagrotta. A peggiorare la situazione c'è anche il fatto che Pecoraro si è fatto sfuggire un riferimento alla costruzione di un altro possibile inceneritore, dicendo che i nostri obiettivi sono far funzionare 4 linee di trattamento e selezione. Le 4 linee a cui fa riferimento sono quelle già esistenti: Malagrotta, San Vittore, Colleferro e Albano, in teoria, diciamo, quello che dovrebbe essere l'impianto di incenerimento, che però adesso sta al vaglio del Consiglio di Stato, perché il TAR lo ha bocciato lo scorso 27 ottobre, quindi 27 ottobre 2010, e adesso Cerroni ha fatto ricorso al Consiglio di Stato per invalidare questa sentenza. Oltre a queste 4 linee, tra l'altro una delle quali è ancora incerta, Pecoraro ne vorrebbe costruire un'altra, che chiama addirittura Albano Bis, quindi dovrebbe essere sullo stesso modello di Albano, probabilmente, ma pure nello stesso posto. Non lo so, speriamo di no, cioè dobbiamo ricominciare all'inizio, però anche per di no. Tutto il discorso fatto, probabilmente sarà lo stesso costruttore, cioè sarà sempre Cerroni probabilmente a volerlo costruire. Quindi questo è il quadro che si va a configurare in quella che è diciamo Roma Nord per quanto riguarda Ariano. L'ottavo municipio, quindi San Vittorino, sorge sulla via Prenestina, alla fine di via Prenestina a sud di Tivoli, e Fiumicino, Pizzo del Prete, insomma sappiamo bene dove sono collocati. Quindi diciamo tutto il quadrante da Roma Ovest, Roma Nord a Roma Est sarebbe circondato praticamente da queste 3 discariche, che sono discariche costruite unicamente per ospitare rifiuti romani, e quindi anche responsabilità dei movimenti romani e delle persone che vivono a Roma, secondo noi, costruire una mobilitazione di contrasto di queste opere per una gestione dei rifiuti diversa, perché non è neanche tollerabile il fatto che cittadini di Fiumicino, di Riano e di Quadro Alto e di San Vittorino si mobilitino per cercare di contrastare queste opere, che poi sono opere che servono a Roma e non servono a Riano, tantomeno a Fiumicino, e invece diciamo da parte di Roma c'è una mobilitazione piuttosto scarsa, o quantomeno c'è una forte disattenzione, forse viene a dire anche disinteresse, nei confronti di una questione importante sia dal punto di vista ambientale che da quello economico, che quindi contrastarla significa anche mettere i bastoni tra le ruote a un sistema capitalistico che si basa sull'accumulazione e sul profitto, e quindi diciamo da compagni e compagni, da movimenti, dovrebbe essere uno dei piani di intervento anche diciamo prioritari in questo momento, se non altro perché, ripeto, ci sono dei comitati che si stanno mobilitando e che comunque vengono un po' a lasciare a se stessi. Una chicca che abbiamo scoperto leggendo il Corriere della Sera, perché prima abbiamo accennato che Piero Marrazzo l'8 ottobre stava per le strade di Riano per manifestare contro l'apertura di questa discarica, e ci diciamo: ma perché Marrazzo se n'è andato lì, che lui è stato uno dei maggiori promotori di discariche e inceneritori? Dalla intervista a Cerroni si legge queste parole di Cerroni: perché Piero Marrazzo mi ha detto, riferendosi alla costruzione della discarica appunto a Riano, perché Piero Marrazzo mi ha detto lì c'è la villa mia, ma che scherziamo? Quindi abbiamo trovato il motivo per cui stava tra le strade, insomma voleva proprio, non nel mio giardino come si dice, non la fate qua. Vi prego. Quindi vabbè, questa cosa ci fa ridere, perché almeno abbiamo trovato una motivazione per la quale è sceso in piazza. Non era per visibilità, ma era proprio per interesse di giardino, diciamo così. Questa è la situazione dei rifiuti, che ha messo uno contro l'altro anche Alemanno e la Polverini, perché Alemanno poche settimane fa era stato a Corcolle assicurando la popolazione, dicendo: non vi preoccupate, qui non faremo nessuna discarica, potete stare tranquilli, vi do la mia parola. Una di quelle situazioni in cui la popolazione deve iniziare, insomma, a pensare malissimo, quando arrivano i politici di turno a dire state tranquilli, mi pare che... Esatto, e infatti da là due settimane è stata indicata Corcolle come sito probabilmente alternativo temporaneo, e Alemanno è andato su tutte le furie, ha attaccato la Polverini, la quale gli ha detto: Alemanno, forse prima di fare dichiarazioni faresti bene a leggerti il piano regionale dei rifiuti, che comunque sono quattro paginette di carta straccia, però almeno là c'è scritto, cioè magari prima di fare dichiarazioni, se prendi atto delle decisioni regionali sarebbe meglio, perché queste sono decisioni di competenza regionale, appunto. E comunque, insomma, c'è da sottolineare il fatto che la apertura di nuove discariche provoca sicuramente, per la forza politica che la porta avanti, un collasso dal punto di vista elettorale. Quindi è evidente questa dinamica, e tutti cercano appunto di tutelarsi il più possibile da questa situazione, e quindi insomma la scelta di nominare anche il prefetto di Roma come commissario straordinario serve pure per appunto sganciare la politica dalle responsabilità e dai rischi appunto di questa situazione. Sì, un'ultima cosa forse da ricordare molto velocemente, sempre tornando ai danni che poi provocano le discariche, vogliamo dire che dopo due anni da quando il comitato di Malagrotta ha presentato una denuncia, diciamo, alla procura di Roma, si è aperta un'inchiesta su quattro morti per tumore che ci sono stati vicino alla discarica di Malagrotta, perché si pensa che appunto la responsabilità sia proprio di quella discarica, dal momento che ci sono quantità fuori legge di moltissimi materiali come ferro, manganese, nickel, benzene e arsenico, e la zona è stata dichiarata a rischio Seveso. Quindi adesso è stata aperta un'indagine epidemiologica per verificare se questi decessi sono stati provocati proprio dalla discarica di Malagrotta. Quindi insomma mi sa che chiudiamo questo lungo spazio su rifiuti, inceneritori, discariche e zozzerie varie. Noi ricordiamo l'appuntamento di sabato pomeriggio ad Albano Laziale, appunto 15:30, piazza Mazzini, sulla direttrice dell'Appia. Un saluto a tutti gli ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa, e smettiamo di parlare di rifiuti, ma non smettiamo di parlare di nocività e di aggressione del capitale sul territorio, perché dopo una breve pausa musicale saremo in collegamento con i compagni della Val di Susa, che per domenica 23 stanno preparando il taglio delle reti ai cantieri. Stile più massiccio è Jake, è massito con il rap a braccio, è ferro, è il top del lessico, è il pop più classico, tipo fanculo ad ogni sbirro, calmo come quando squaglio il rollo, è ghiaccio, uno sta nel ritmo fino al collo, due per la grana, tre per le b-boy stance, perché è una questione d'attitudine, è il nome sul muro, è duro su un vagone, lo sfoggio del trick più gaggio dentro la competizione, sul flash del clash del sound ti ci giochi la reputazione come nei playground, altro che down, questa è l'app totale, rock da ogni botta un quintale, il livello che sale insieme alla temperatura, ed è il sangue che si mischia in un'unica cultura. Non è del momento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe sul classico originale boom bap, nasce da niente, si espande, espande. Non è del momento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe sul classico originale boom bap, nasce da niente, si espande. Niente di più facile, il rap bomba. Io nella mia giungla vivo e scrivo fino a notte fonda, sì. Se c'è la musica son l'ombra, se c'è da devastare sono io la grande onda che si forma in questa selva di fagiani. Sono il cacciatore, la mia penna spara tra le mani, mentre la mia testa non spera nel domani e crea piani. Il rap è il rap, noi portatori sani, dove tutto è deleterio, come Jaime sono serio e come me so sempre vero. Gioco da ragazzi tra i palazzi come TRV, get up, andare su, la città è nostra, perché il rispetto costa, per questo mo date una mossa o date la scossa, io pio la rincorsa, il muro l'ho scavato anche da solo stavolta. Non è del momento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe sul classico originale boom bap, nasce da niente, si espande, espande. Non è del momento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe sul classico originale boom bap, nasce da niente, si espande. del fomento con il rap. Colle del fomento suona più forte delle bombe. Classico originale, classico originale. Colle del fomento con il rap suona più forte delle bombe. Parla dove tutti stanno muti. Colle del fomento, zio, balla coi lupi. Dammi due minuti, c'ho la selva del lessico. Elettrico, eclettico, viaggiare stando fermi è il massimo, è vita. Per te soltanto una gita è la sfiga. Ti fotte la notte che arriva. Voi vedete, colle non scherza e se scherza so uova e la mette. Rap che non smette. Faccio stanche giù, Nike bianche, umore nero sul fronte del palco e ground sotto zero. Su con un pensiero più forte delle bombe, con molte più parole che tombe al cimitero. Sparo pallottole da stalaringe, un massiccio spinge dall'era delle Jordan 5. Una testa in guerra e due dita per la pace sul classico suono originale che ti piace. E allora torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come abbiamo annunciato, siamo in collegamento con un compagno dal quel della Val di Susa. Pronto, ci senti intanto? Sì, ci sento. Va bene, allora noi in questi giorni anche nelle rassegne stampa di Val di Susa se ne è parlato, anche perché insomma i media hanno iniziato da subito dopo il 15 a parlarne in maniera molto molto molto pressante. In particolare, insomma, sappiamo tutti che l'occasione è questa giornata di domenica 23 con l'annunciato taglio delle reti. Intanto quello che ci interessa sapere è come sta venendo vissuto l'avvicinamento della Val di Susa a questa giornata proprio là in valle, visto che questo ovviamente sui media è completamente scomparso. E poi appunto se ci puoi raccontare un pochino come si sta organizzando proprio la giornata. Sì, allora, vabbè. La giornata era stata indetta più o meno un mesetto fa. Per indirla avevamo fatto più di un'assemblea, alcuni coordinamenti di comitati, e avevamo cercato di un pochettino creare una buona giornata in questo autunno che si sta avvicinando, variando un pochettino la fase, anche le modalità classiche di lotta. In quest'estate c'erano stati più assedi notturni, pressioni diciamo più serali che diurne, a parte magari le giornate più importanti come quella dello sgombero del 27 giugno e del 3 luglio, che erano state di giorno. Adesso si voleva tornare un pochettino a fare le cose di giorno, far vedere un pochettino quello che è la Val di Susa e andare a smontare un po' quel mostro mediatico che era stato creato appunto con gli assedi notturni, che sembrava che ci fossero questi incredibili black bloc che arrivavano di notte a fare chissà che cosa, quando in realtà era semplicemente la gente della valle che di sera, quando si finiva di lavorare, ci si trovava e si facevano questi momenti di pressione, di corteo attorno alle reti. Allora si era creata questa giornata di giorno in cui volevamo smascherare questa truffa di questo cantiere che non c'è, tagliare queste reti che non solo sono illegali dal punto di vista giudiziario e tutto quanto, ma sono anche illegittime. Non riteniamo giusto che un pezzo del nostro territorio sia militarizzato, occupato da più di 5 mesi e che lì si voglia iniziare la distruzione di questo territorio, quindi volevamo smascherare questa cosa andando a tagliare di giorno a volto scoperto queste reti, facendo quella che molti del movimento notavano, avevano già dichiarato da subito, quello che è un atto supremo di disobbedienza civile, no? Quindi prendere e tagliare delle reti in pieno giorno a volto scoperto, che non è un atto di offesa ma è un atto di resistenza attiva che serviva un pochettino a uscire fuori da una fase particolare. Senti, poi c'è stata Roma, diciamo il 15 ottobre, e in questa giornata diciamo che la Val di Susa è tornata un pochettino alla ribalta, perché era lì con uno spezzone, non si è tirata indietro, anzi c'è stata in tutta la giornata. Ovviamente con dei distinguo, perché ha detto vabbè, il movimento notare c'era a Roma, ci sarà sempre a Roma, come però il movimento notare. Quindi non ci sembrava il caso di entrare nel merito di alcuni tipi di discussione, però sicuramente in quella giornata siamo entrati e ne siamo usciti assieme con tutti quelli che c'erano. Poi le valutazioni stanno ad altri, sicuramente non è un movimento che si occupa di altro, arriva anche da molto lontano, però che comunque anche in questo caso non si tira indietro, non si tirerà indietro. Poi dopo questo putiferio che si è creato su quella giornata, c'è chi ha voluto approfittare di questa situazione per paventare diciamo, un rischio di infiltrazioni, di un ripetersi di situazioni romane, di un ripetersi di Piazza San Giovanni in Val di Susa, e così, cogliendo l'occasione, è riuscito a recuperare 1700 uomini da schierare in Val di Susa a difesa di non si sa che tipo di ordine o di che tipo di pace sociale. Ecco, quindi più o meno la situazione è questa qua. C'è chi ha approfittato di questa situazione per stigmatizzare ancora una volta la Val di Susa, per approfittarne per creare di nuovo un altro dispositivo militare incredibile per cercare di frenare la mobilitazione del movimento. Senti una cosa, te hai parlato giustamente, insomma, della giornata di domenica, una giornata in cui smascherare ancora una volta un cantiere che non c'è, possiamo dire, poi la cortina mediatica costruita da arte su appunto la questione infiltrati e Black Bloc ha fatto passare in secondo piano quella che è la seconda notizia in questa settimana ci viene per quello che riguarda la TAV, e che è l'ostinazione sostanzialmente delle istituzioni a buttare soldi su questa opera. Oggi sui giornali si parla di altri, di ulteriori 3,2 miliardi di euro che si hanno a sommare, insomma, a tutte le spese che lo Stato italiano già ha e già metterà in campo anche nella giornata di domenica per garantire la presenza appunto del numero spropositato di agenti di polizia e quant'altro. E insomma, questa vicenda dei fondi europei, se ci puoi spiegare un po' meglio di cosa si tratta e come va a incidere. Vabbè, poi quello sì, i fondi europei sono una cosa molto semplice: tutti i paesi europei versano comunque del denaro pubblico ogni anno all'Europa. Questo denaro pubblico poi viene gestito in maniera comunitaria, appunto, dalla comunità europea, e viene destinato ai paesi che hanno dei progetti o che hanno delle difficoltà o altro, come ad esempio può essere oggi la Grecia che ha delle difficoltà economiche, la Spagna o il Portogallo, piuttosto che destinati su progetti di vario tipo. Quando si parla di iniezioni di denaro su crisi economiche, i soldi arrivano, nel senso che comunque vengono iniettati, vanno a coprire magari dei debiti o delle plusvalenze degli stati. Quando si parla di progetti, i soldi non arrivano subito, i soldi vengono presi, messi da parte, poi lo Stato o gli stati che progettano un'opera o un qualcosa portano avanti i lavori, li finiscono, pagano le ditte, a fattura emessa, a fattura pagata, poi l'Europa va a rimborsare quanto. Quindi questo è, sono soldi finti che sono solo sulla carta, non si sa se ci saranno quando poi dovrebbero essere stanziati veramente, quindi erogati. Ad oggi i cantieri non sono partiti, non c'è la forza di farli partire, non si può pensare di far lavorare una ditta in queste condizioni con una popolazione che quotidianamente fa pressione alle reti e cerca di impedire l'inizio dei lavori. Quindi nessuna ditta oggi sta lavorando, se non una piccola trivella che è grossa poco più di un autoveicolo, che ha fatto nelle scorse settimane 3 carotaggi in una ex discarica che non è nell'area di cantiere ma è di fronte all'area di cantiere dove si è stabilizzata la polizia, e sono 3 sondaggi mediatici, diciamo, per far vedere che qualcosa si muove. Sono 4 operai con una trivellina che ha lavorato in queste 2 settimane qui e boh, niente di più. Quindi ad oggi il cantiere non c'è, si continua a dire che i soldi ci sono quando in verità non ci sono, ma sono ancora a Bruxelles piantati lì belli al sicuro. Non ci sono ditte che sono disponibili a lavorare oggi in queste condizioni, quindi la situazione rimane di fatto bloccata. Ci sono molte possibilità per il movimento di bloccare definitivamente questi lavori, noi vogliamo metterle in campo queste possibilità. Una di queste è andare domenica tutti assieme, una grande giornata. Quindi possiamo dire che attualmente gli unici soldi che insomma si stanno spendendo in Val di Susa sono per militarizzarla in qualche maniera, visto che il cantiere è tutto fantasma. Allora, è un calcolo che non abbiamo fatto noi, è un calcolo che ha fatto il SAP, che sicuramente non è un sindacato amico o simpatizzante dei movimenti, anzi forse è il primo che li vorrebbe vedere all'agonia o appesi. Ha calcolato che oggi si spende in Val di Susa 90.000 euro al giorno per tenere su delle reti, quindi già solo questo dovrebbe spiegare che cosa sta succedendo in oggi in Val di Susa. Logicamente sui giornali di cosa si parla? Si parla di Black Bloc e si parla di tutt'altro, insomma, meno che del problema reale, cioè che c'è una popolazione da un lato che non vuole questi cantieri e la polizia dall'altro che sta lì a difendere un cantiere che non c'è. Di meno quella è la situazione oggi. Senti, qua da Roma insomma c'è la chiara impressione del fatto che il circo mediatico, la criminalizzazione insomma si è spostata immediatamente dalle vicende insomma del 15 ottobre a quelle valsusine, proprio per cioè proprio come punto di forza proprio per colpire questa vertenza ormai ventennale, e c'è stato proprio un, è evidente che c'è un passaggio, una volontà di chiudere questa faccenda del 15 ottobre romano e invece pressare e criminalizzare quello che è un movimento popolare che insomma veramente crea dei problemi al sistema. E quindi insomma c'è tutta l'attenzione da un giorno all'altro è passato dalle vicende romane alla Val di Susa, e questa cosa è sconcertante perché insomma si è tirato fuori la questione del Black Bloc e poi come per magia si è riversato tutto sulla Val di Susa nel giro di 24 ore, e quindi insomma è ancora più, cioè c'è un'operazione in corso proprio di criminalizzazione veramente pesante che va rigettata. È evidente che insomma le popolazioni lì non vogliono questa opera e il pretesto è sempre quello del insomma dell'infiltrato. Poi addirittura insomma qui non si parla più nemmeno sui giornali di infiltrati, ma proprio di convivenza con i violenti, quando insomma è evidente che a un certo punto le pratiche per impedire che questa opera si compia è inevitabile che prevedano anche il fatto che ci siano delle forzature con le forze dell'ordine, con nei cantieri. E, insomma è sicuramente una, un aspetto che va analizzato e va pure rimandato al mittente. Sì, sicuramente. Noi innanzitutto ringraziamo il ministro Maroni, l'abbiamo già fatto il 30 luglio, quando pochi giorni prima di un corteo, che era un corteo tranquillissimo, di chiusura del campeggio, iniziò a paventare il rischio scontri, incidenti, che se le famiglie della Val di Susa di stare a casa. Quel giorno la mobilitazione fu grandiosa, fu ampissima, e servì semplicemente, queste dichiarazioni servirono a far arrivare più gente al corteo, quindi tutti vollero venire per principio a quel corteo. Oggi è successa la stessa cosa, quindi ringraziamo tutti quanti quelli che anche hanno creduto e pensano di diciamo di sfruttare delle situazioni particolari per mettere in cattiva luce il movimento, perché se poi queste persone sono le stesse che se da un lato chiedono alle famiglie di stare a casa che è più sicuro, poi dall'altro gli propongono dei cantieri che distruggeranno il loro futuro e la loro terra, siccome sono le stesse persone, le persone della valle ormai le conoscono, e quindi verrà molta più gente domenica. Quindi è un bel regalo che è stato fatto alla Val di Susa questo, e anche un modo per continuare a parlare di Val di Susa, perché effettivamente non se ne parlava da un po' di mesi. Adesso abbiamo la possibilità di dire quello che sta succedendo qua, quindi penso che sia stato un bel autogol, e allo stesso tempo almeno ha spostato un pochettino l'attenzione da un livello di criminalizzazione anche che c'era sulla dimensione romana pazzesca. E quindi se da un lato si è passati da Roma alla Val di Susa, si è passati forse anche una situazione in cui il movimento magari è un pochettino più forte ed è in grado di rispondere immediatamente e rigettare le cose. Sono fatte delle assemblee nei giorni scorsi, se ne farà una questa sera, in cui di fatto abbiamo sancito la continuità del programma del movimento Notav, che è quello di andare avanti, comunque di proseguire con queste mobilitazioni. Avere 1600 poliziotti in più qua in realtà non cambia nulla, perché quello che farebbero domenica o che faranno domenica lo fanno tutti i giorni, Val di Susa, quindi non è che cambia qualcosa per il movimento. Quello che c'è in più è che finalmente si torna a parlare di Val di Susa. Adesso sarà poi al movimento, a tutti quanti, riuscire a sbloccare un pochettino l'assedio di questo assedio mediatico. Va bene, e l'occasione è ovviamente domenica 23, giornata in cui sicuramente ci andremo a risentire, andremo ancora a parlare di Val di Susa da questi microfoni, vi renderemo conto di quanto succede intorno all'area del finto cantiere. Nel frattempo noi ti ringraziamo del tempo che ci hai dedicato e ti facciamo un in bocca al lupo. Grazie mille, ciao a tutti. Colle del Fomento. 2006, benzina sul fuoco. J Baro, Masito, più danno. Questa è la mia vita, solo la mia vita. La mia vita è tutto quello che c'ho. La mia attitudine è rumore, non gioco. È un mondo freddo come il ghiaccio, perciò la mia musica è benzina sul fuoco. La mia vita è tutto quello che c'ho. La mia attitudine è rumore, non gioco. È un mondo freddo come il ghiaccio, perciò adesso la mia musica è benzina sul fuoco. Come un cipresso in mezzo ai bambù, il colle si eleva, non si eleva, quindi levate tu. Sul tempo devo andare più su. Mi fumo gli MCs mentre impasto la mista, per non vedeve più, non ve sento più. Più mi muovo più resto, fermo e resto qua giù. Non chiamarlo un ritorno, Se porto l'inferno non c'è festa che dura in eterno. Giochi col rap, il rap gioca con te. E poi mi dici poi rispetto di che. Basito, blasta, guasta, devasta e cliché. Con te, scimitarre dentro il cuore del rap 21 per me.